ha preso una sada e ha rimesso in piedi il paletto. Incredibile. Sanna era micidiale, era culturista, era. Oppure se avrebbe bisogno di aiuto qualche volta, magari è successo anche una volta, c'era una manifestazione canora lì al monte, c'erano i cantanti eccetera, no? E c'erano questi che si stavano azzuffando, è andato lì, la pia, tutti e due, ma lo colletto, ha detto: se non smettete vi tiro la testa con testa e vi ammazzo tutti e due. Lo c'è non danno venita, lo conoscevano e dunque lo temevano anche, capito? Era così, perché stavano osservando il pubblico, visto che stavano bisticciando lì e non davano fastidio alla gente che stava ascoltando i concerti. Dai, avanti a tu. Sì, se non succedeva appena ripigliava tipo come una iatturina e ricucciolava, vabbè. Ehi, Arugrivia, come ti ha fatto una volta un mio cugino, era appena uscito dalla palestra e faceva il pugile, e lui era un pugile pulpo, nel senso la parola, faceva gli incontri eccetera, esce dalla palestra di via Muraglie, gira davanti al mercato, lì dove c'è il bar, no? Davanti al mercato. E lì c'è la ridicola, c'è ancora la ridicola, però prima era un pochino spostata, non dove adesso, era, vabbè, comunque non è importante. E passa la sorella di questo, che tra l'altro è una mia cugina, e c'era una greffa di giovanotti, erano cinque giovanotti, che lì praticavano sempre a stare dietro l'edicola, insieme a quello dell'edicola stesso. Passano questo, e uno di questi non si permette di toccarla, caspita, mai l'avesse fatto, perché in quel momento quella lì si è girata, giustamente, no? Ha buttato il disgraziato, eccetera, eccetera, sì, magari gli ha dato un colpo di bossetta, eccetera, e non è arrivato Maurizio in quel momento, è arrivato, proprio appena uscito dalla palestra, ancora caldo era, dall'allenamento, e ha visto questa scena, che la sorella, caspita, di ribone in mano, in cinque erano, beh, tutti e cinque li ha messi K.O., robe, tu non ci crederai, cinque giovanotti più alti di lui li ha messi tutti K.O., a colpo l'uno, proprio così. Maurizio, vi posso fare anche il nome, Maurizio Pugli, mio cugino praticamente, tutta la famiglia Pugli, lo so, per cui avevano la scuola, sapevano dove colpire e di punire K.O. a ogni colpo. Avanti, Antù. Papà, chi sei io, ti chiudi me, da più gentezzo, vado, tutta gente chiudi me. Ma per caso pure devi, neppure nell'antidote di questa famiglia, no? No, tutta la Batte dello Monte, tutta la Batte dello Monte, oppure a Coso, alla parte alta dei Cappuccini, Giuseppino abita lì, Giuseppino era proprio il pugile professionista anche, che abita lì, come si chiama, e dopo ci sono le ville su ai Cappuccini in alto, dietro il tetto, la zona residenziale che c'è dietro di te, che non mi viene il nome adesso. Luna Sole, su, non mi ricordo come si chiama quella zona, è lì, abita lì, alla villa lì, questo, uno di questi, però non era lui, era l'altro, il fratello di questo, che anche lui pugge, tutti pugge in quella famiglia. Non mi ricordo come si chiama, vabbè, dai. Ma io conosco un pugile, Pugli, che è giovane, più o meno l'età mia, forse un po' più grande, campione italiano, lo stesso di pugilato, che va in giro col carro attrezzi del comune, e il figlio di quello lì l'ha allenato mio fratello. Conosco a chi so? Sta parlando di Maurizio. Maurizio, quello probabilmente, era proprio di quello che stavo parlando io. Maurizio Pugli, che è ex pugile. Dunque, infatti lavorava proprio col comune, ha lavorato col comune, adesso non so se c'è ancora, forse adesso in pensione, non lo so, ma io sto parlando di tanti anni fa, era più giovane, dunque era ancora in palestra, ti puoi immaginare. per dire, no? Non so, forse ti riferivi a quello. Sì, sì, il figlio Samuele si chiama. Anche lui pugile, il figlio pugile, sì. Sì, sì, no, lo conosco, perché ripeto, il figlio l'ha avuto Danilo in squadra con lui tanti anni. Era un tonnetto, nel senso un torello, perché era tosto rispetto al padre che è più magrolino. Il padre cos'era, pesi più, ma qualcosa del genere. Però è stato campione italiano, vice campione italiano, qualcosa del genere. Sì, sì, sì, sì, sì, ma è lui, è lui, è lui. Sì, il figlio appunto, anche lui ha fatto il pugile, però il figlio ha smesso subito, quasi subito, là. Non è che ha continuato, mentre lui invece ha fatto parecchi incontri, no? non c'è stato verso, ma tutta la famiglia veramente, tutti quanti, però il più forte di tutti era Giuseppino, che aveva il banco da macellaio lì al mercato, eccetera, che poi tra l'altro tutti i giorni lì davanti al mercato insieme ad un altro ex pugile, che sono amici da sempre, anche perché sono tutti e due più grandi di me, e lì si fanno le quattro chiacchiere tutte le mattine davanti all'ingresso del mercato. Sì, è così. Appunto, quello che abita lì su Monte Bianchino, ecco, Monte Bianchino, delle villette di Monte Bianchino, lì abita Giuseppino. Vai, Roberto. Vai tu. Capa. Ma da giù un preso cassa di zende, ya. Io ho 10 con di voce in me, dove sono caratteristi, già riconosco tutti in giro, ma è anche un amico mio che lo conosce, e chi sa niente che mazza me, la gente è brava, però è gente burovicude, non le devi rompere io assai. Ma è gente bravissima, tu gli puoi chiedere il cuore, lui è capace, se lo strappa dal petto e te lo dà, per dire, no? Però e sta attento, non lo mortificarmi, perché sennò gli dà ragione. E io so, appunto tutti i miei parenti sono, dai, tra cugini e nipoti che ho, praticamente sono tutti, ma tutti in genere hanno fatto sport, sia con la famiglia, sia per il calcio che per il coso, che per il pugilato. Ma la maggior parte pugili, dai, la maggior parte pugili. Tutti quanti, vabbè, ormai qualcuno è deceduto, anche più di qualcuno, anche uno ultimamente, però quello faceva il portiere allora, portiere di calcio, un grandissimo portiere, che ha giocato anche ad alti livelli. Va bene, dai, avanti, va bene. Che poi c'era anche Mariolino Pudi, che è molto forte giocando a pallone, ha giocato in serie. No, ma questi pugili ti insegnano anche la disciplina, a controllare gli istinti, gli afferrati, perché io ne conosco di ragazzi, lo stesso quello Serra di Ossi, un ragazzino lo conosco da quando è nato, questo, due gemelli sono, uno pure è andato alle Olimpiadi e tutto quanto, ci avrà sui 26 anni questo ragazzo, ma questo da piccolino era un terrorista, c'era una situazione familiare un po' particolare, terrorista sempre, perciò lo prendevamo giù al mare, stava alle coso, per tenerlo tranquillo, se no il tonnino si afferrava. Poi è entrato nel discorso del pugilato, calmo, tranquillo. Sì, tutta gente brava, no? Che pratica lo sport, diciamo che gli è di insegnamento per rispettare il prossimo anche, ma tutti in genere, tutti gli sportivi di qualsiasi disciplina, di solito diciamo che apprendono un insegnamento rispettoso nei confronti del prossimo. Sì, Mariolino è mio nipote addirittura, no? Vabbè, noi ci consideriamo cugini, ma in realtà è mio nipote, Mariolino, quello lì era un difensore, un terzino. Poi c'è anche l'altro fratello, quello più alto, no, Pinuccio, quello era centravanti, faceva una catena di gol, una caterva di gol faceva tutti gli anni, tutte le volte che giocava. Lo conosce a Pinuccio, il fratello di Mariolino? Sì, si sono molto conosciuti, hanno giocato anche in Serie D, non so se qualcuno ha fatto qualche presenza in Serie C, Mariolino era forte lo stesso, tutti forti con la famiglia, sia come pugilato che come, è che gli mancava il fisico, magari non erano altissimi, se avessero avuto un po' più fisico avrebbero fatto qualcosa in più. Sì, in effetti, Pinuccio sì, Pinuccio già non era piccolino, il Mariolino è che è basso, più o meno sarà 1,65 m, una cosa del genere, ma Pinuccio sarà almeno 1,80 m, più o meno, una vincicola così, con l'altezza suppongo, infatti era molto forte anche di testa, Mariolino fortissimo come difensore, mentre invece Pinuccio fortissimo come attaccante. Sì, in effetti te lo sto dicendo, hanno giocato anche a un certo livello. Poi c'era Michele il Grande, noi lo chiamiamo Michele il Grande, perché ti spiego, perché c'era Michele zio e Michele nipote, tutti e due, però uno era portiere, Michele il Grande, e l'altro invece era Michele Podiche, anche lui, però quello lì era un pugile, era quello lì, ma è deceduto abbastanza giovane quello, mentre invece Michele Podiche è morto, sarà un anno e mezzo, 2 anni fa, non di più, il portiere, quello era alto, ma il Suburu è proprio con gli amici. Non potevi modificare, no, macellaio quello, lo stesso, avanti, non so se l'hai conosciuto Michele, portiere. Ehi, vai a tu. No, ho abbassato un po' di potenza, mi sentite lo stesso? No, non l'ho conosciuto, no, quello lì. Non me lo ricordo chi è, magari l'ho conosciuto, però non l'ho conosciuto, capito, di persona, non mi ricordo. Ok, tutti sportivi, tutta la famiglia, tutti sportivi, o chi giocatore di calcio o chi pugile, diciamo 4-5 giocatori e magari so, 7-8 o forse anche di più pugili, perché oltre ai padri anche poi i figli eccetera eccetera, certo, sì, e poi c'erano anche altre persone molto forti, non so se tu l'hai conosciuto a Elio Pugile, campione italiano del pugilato, o Robè, guarda che faceva la guardia giurata a Lenel, ha lavorato, praticamente, vabbè, adesso non faccio il nome di chi è fratello, ma è uno che parla con noi alle volte al baracchino. Boh, non ce l'ho presente adesso, ma grande di età. Un attimo. Cosa hai detto tu? Ecco un attimino di bianco. Ma non ho capito chi sta dicendo, di come si chiama, quanti anni può avere giù? Ma diciamo che può avere 50-52 anni, più o meno così. Lai, sto parlando di Elio Lai, Elio Lai nipote, perché anche lì c'era Elio Lai zio e Elio Lai nipote, che è stato campione italiano di pugilato. Guarda che come attività lavorativa lui era impiegato all'Enel praticamente, lavorava lì su a Sarasecca nell'ufficio dell'Enel all'ingresso. Mia Claudio. Claudio, cos'è? Dimmi, non è che ti senti male, no? Perché ti ho sentito in una maniera un po' strana, Claudio. Buonasera a tutti, buonasera. Vabbè, intanto a lui non se ne toccare, siamo lontani, per cui no. Ciao Cla, e allora, a parte se ci dà, dove la vedi dai, Per fare contento Roberto, io mi stavo preparando la cera, capito? Ho fatto i finocchi al forno, altri forati con formaggio, eccetera. Ho preparato l'insalata, ho fatto un manzo bollito con olio di limone, questa notte, i peperoni al forno con... diciamo girati con gli secchini ripieni con le acciughe. Mi ha preparato la cena, ho finito adesso. Ho capito, insomma ti sei trattato bene per la cena, dai. Per dopo, per la cena, hai fatto bene. Hai fatto bene qua, andavi, dai. C'è Roberto, poi c'è Antonio in quel ricchi di ascolto che ha chiesto un attimo di stand-by. Ok, avanti, va bene. Ah, ma Claudio, dopo che ha cucinato, è stanco si figoca, è una maglia di latte la roba. Cucino io, te l'ho detto. La roba leggera, Giulio, cos'è? Non ce n'è carne, filocchi leggermente sgolentati, poi vanno tagliati a fette, messi nella teglia, con un po' di burro, spezzatino di parmigiano reggiano, poi pare che la ciuggiata sopra, ma diventino un pochino croccante. qua, purtroppo sta piovendo anche oggi e ora dove va, d'altronde è così il tempo, questo, speriamo che faccia bella giornata almeno domani e soprattutto lunedì. Lunedì mi interessa che non piova, ma sai perché devo andare a cacciarmi di là? Perché dovevo andare oggi, ma no, non ci sono andato, manco un sogno, o magari non ci vado nemmeno un lunedì. Va bene, avanti dov'è? No, no, c'è una domanda, anche lunedì piove, di meno di domani, però piove lunedì, frequenti precipitazioni ci sono lunedì, c'è scritto. Allora vuol dire rinvieremo ancora, no? Se poi, se non sarà lunedì, sarà martedì o mercoledì, anzi no, siamo già all'Epifania, sì che allora andremo anche dopo, dopo l'Epifania a fare visita all'ufficio postale. Vediamo se è rientrato Antonio. Antonio, sei rientrato? Come? Sono rientrato. Ok, avanti, è entrato Claudio, frequenza Antonio, non so se l'hai sentito. Certo che l'ho sentito, ero giù quando l'ho sentito. Ciao Claudio, buonasera. Ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato, sono il basso del TF. Buonasera, ben ascoltato. No, no, no, io non ci vado mai apposta, non mi ha scritto in banca, non mi serve, non vado in banca, non potrei. Sta storia di andare lì, cazzo, mi potevo andare a fare qualcosa proprio alle poste, dove di solito non faccio mai niente alle poste, faccio tutte le tabacchine e cose così, ma ogni volta tocca ammazzarti con questo casino che c'è. Va bene, avanti, va bene. Uno dopo uno, scusate un attimo, mi sto allontanando, vengo tra poco, dai, scusate, riprendete voi. Sì, che ti sento bene qua, sì, non c'è problema. E vabbè, ma io lo faccio più caldo per fare quattro passi, se no sono praticamente relegato ad ergastolano. Capito, noi ci manco in questa occasione, allora siamo proprio, oh, no, no, io vado e mi fa piacere uscire quando devo andarci, un po' perché devo ritirare su. E poi al suo tempo soprattutto per fare quattro passi, infatti io non ho mai chiesto la debito direttamente sul conto, perché al limite io da lì li prendo e poi mi faccio un'altra passeggiatina vicino lì, sempre in zona, per depositare o per fare altre operazioni, tutto lì o là. C'ha pure ragione Giulio, ma manco fatica qualche cosa, magari nel frattempo che aspetta c'è un amico, una papità, poi aspetti piano piano, come si fa, dai, è anche bello così, dai, magari lui non ha da fare niente, quindi è anche meglio che esca un po'. Infatti Antonio, lo scopo mio è proprio quello, e se no anch'io avrei fatto allo stesso modo come fa Claudio, avrei fatto fare l'addibito e basta, no, e allora avrei perso anche quella opportunità di farmi quattro bassi, anche perché ormai sono già da tanti anni che faccio sempre quel tragitto. Tu pensi che non l'ho mai spostata nemmeno dalle poste centrali, perché io avrei potuto chiedere anche il trasferimento qui nelle poste vicino a casa, invece no, vado proprio lì, perché intanto ero abituato, mi facevo il giretto, andavo, depositavo la macchina lì nella zona di falegnameria e poi quattro passi a piedi proprio per camminare, per muovermi. E allora era fatto insomma con scopo, ecco, se no è così, è rimasto. Adesso purtroppo c'è la pandemia e si è costretto praticamente a rimanere a casa ed esco solo esclusivamente per fare certe commissioni come quella, oppure per andare magari a fare delle visite eccetera, poi per altre cose non esco mai, difficilmente esco, un po' per paura, un po' perché non te lo permette la situazione, per cui faccio così. Avanti qua. Avanti di fianco. Perché tu lo pensi che stai uscendo? Io esco solo esclusivamente per fare la spesa, per fare pagamenti, per cose necessarie, non è che sono in giro. Sono sempre a casa, infatti ho preso qualche chilo, l'ho preso, ma adesso già ci rimettiamo in carreggiata un momento. Avanti a tutti. Antonio, non le prende, allora le prendo io. Beh sì, in effetti è così, fa poco movimento e dunque poco, si bruciano poche calorie, e poi quando si è a casa si sa cosa fai, dalla poltrona al divano, dal divano alla sedia, al computer, eccetera eccetera, un po' alla radio, ed ecco che movimenti non ne fai, e dunque non bruci calorie, però allo stesso tempo vedi una cosa e stuzzichi sempre, e per esempio mangiando ogni tanto ti avvicini a queste cose, in famiglia è normale, no? E accumuli peso, anch'io, perché non ho accumulato peso, però anch'io vorrei dimagrire, ma è quanto vuoi, cosa faccio? Non mi posso permettere nemmeno di uscire, proprio per la paura di questo contagio, accidenti, caspita, al giorno che è arrivato questo contagio in Italia, speriamo che si metta presto, che finisca prima possibile, avanti a dire qua. Ho sentito le notizie molto brutte oggi, molto molto brutte, con questa storia delle bruciette ci sono stati casi parecchi, perché ci sono state delle persone incoscienti e molta gente non ha rispettato le normative, case piene di gente, festini, contro festini, capito? Quindi ritorniamo sempre al discorso che nessuno è responsabile delle proprie azioni, sono tutti degli irresponsabili. Però bisogna anche dire una cosa, secondo me questa cosa è una ruota che gira, perché cosa ne sai, se magari ce l'ho avuto anche io, non lo so, non ho fatto nessun sintomo, è una ruota che gira, te lo scoprono al momento, te lo scoprono, poi bisogna vedere, poi bisogna smentire certe cose, perché si hanno le difese immunitarie dopo, e non ti attacca più. Quindi non è esattamente così, non è esattamente così, c'è gente irresponsabile, capito? Perché le persone anziane non c'hanno l'immunità che c'è tu, non c'hanno gli anticorpi che c'è tu, hai capito? Che c'hai l'età che hai, che sei un ragazzo, e basta qualsiasi cosa per poterli crepare, appunto, tanto che sono stati tre morti, proprio ieri, tre morti a Sassari, capito? Le persone anziane, a causa di che cosa? Di questo assembramento familiare, capito? Quindi c'è gente irresponsabile, bisogna capire che siamo in un momento molto critico e dobbiamo far funzionare la testa, non i piedi. Sì, in effetti è così, la gente è proprio irresponsabile assolutamente, anzi addirittura incosciente proprio, che non si rende conto del rischio, del pericolo che corrono e che possono portare anche agli altri, soprattutto in famiglia. No, non è possibile assolutamente, la gente che non capisca queste cose. Però diciamo che la gente in un certo senso si sta anche adattando al sistema dello Stato stesso, perché il governo per conto mio è stato irresponsabile dal primissimo momento, perché se avessimo continuato come l'avevamo in estate e non avessero dato tutti il permesso di andare ad assembrarsi, a ballare, a fare, a divertirsi eccetera eccetera, dovevano continuare ancora per un bel po' di tempo, almeno 15-20 giorni o anche un mese se fosse stato necessario. Tu mi dirai, ma è l'economia, e l'economia non è peggio adesso che sei costretto a chiudere sistematicamente per tanto tempo, o meglio per più tempo di quanto sarebbe stato necessario prima, facendolo prima? Per me l'incoscienza c'è da parte dell'alto, e dunque la gente si è adatta anche a quello. E poi non parliamo anche dei controlli che fanno, ma è utile che tu gli metti una contravvenzione da 400 euro, li subigliano e arrescano la fase di Giave in mare, oppure a quei negozi che io stavo leggendo l'altro giorno, questi supermercati, caspita, che aprono lo stesso, quando non possono aprire si prendono una multa, perché poi loro dall'incasso guadagnano sempre, altro che multa si pagano, a quello chiudi l'attività, vedrai che quello lì non lo fa più. Ecco com'è il discorso, siccome non ci sono le leggi ferie e serie, come si si dovrebbe, e allora la gente ne abusa. Ecco qual è il problema qua. Ci conferma, è proprio così, è proprio così. Nel frattempo ho cambiato radio, adesso stanno andando 140, devo fare con 430, vabbè, ma non cambia niente. È proprio così, gente, irresponsabile, irresponsabile, perché veramente c'è stato, non solo in Sardegna, tanto in Sardegna ci sono stati degli aumenti pazzeschi, a causa proprio di delle feste natalizie, ok? Ma in tutta Italia, soprattutto a Palermo, a causa di una festa di circa 100 persone, ok, tutte riunite per fare festa, ci sono stati 60 contagi diretti, 60 contagi diretti, senza contare chiaramente gli asintomatici che ci saranno nel gruppo, capito? Quindi gente irresponsabile, non hanno rispettato le normative di legge ed è chiaro che non ne usciamo più, non ne usciamo più. Il problema è che hanno fatto entrare troppa gente da fuori a Buru, cioè questa estate hanno fatto entrare troppa gente da fuori, perché non bloccarli come aveva detto il governatore della regione Sardegna che voleva bloccarli, no, era cattivo, era, no, tu per quest'anno non entri in Sardegna, hanno combinato un casino che era midda e basta. Sono d'accordo con te, Antonio, sono d'accordissimo con te, quello che hanno sbagliato loro è quello, ok, perché noi eravamo blindati, non avevamo nessun contagio, eravamo proprio a tasso zero, ok, in Sardegna. Dal momento in cui hanno aperto le scottezze nel periodo di agosto in Costa Smeralda e hanno fatto entrare tutta quella gente, ci hanno condannato a morte. Poi cosa sono andati a dire? Che siamo stati noi a contagiare a loro, capito? Tanto è vero che la regione ancora, si è costituita a parte civile per questa calunnia e queste accuse a livello europeo, a livello europeo ci hanno calunniato, capito? Quindi, quella è una cosa, però il fatto che anche noi siamo un po' irresponsabili, perché stiamo parlando di adesso, vedi, PCM che ci sono stati adesso, non sono stati rispettati, e te lo posso assicurare che non sono stati rispettati, però hanno tolto gli assembramenti ai bar, capito? Gli assembramenti ai bar che stavano lavorando 6 ore al giorno, 6 ore al giorno, capito? Facendo entrare la gente a uno a uno, seguendo il DPCM, seguendo le normative di legge, e poi mi lasci tutti i centri commerciali aperti, tutte le cose aperte, e continui a far entrare gente, perché non chiudi gli aeroporti, non chiudi le cose necessarie che devono essere chiuse per poterci blindare, perché noi siamo un'isola, non ci dimentichiamo, siamo un'isola, fa tutto speciale, e tra l'altro nessuno ci potrebbe comandare, e invece ci hanno costretto a fare quello che hanno fatto in Italia, capito? Avanti Giulio. E infatti, ma è così, che poi a noi ci mettono dei limiti e delle regole, poi però il governo stesso è il primo irresponsabile, perché pensiamo poi a tutti gli sbarchi che arrivano, tutte quelle persone che arrivano dall'Africa, dalla Nigeria, dall'Albania, un po' dappertutto, quelli cosa fanno? Portano malattie, portano prostituzione, delinquenza, di tutto portano, e noi sempre parenti, e noi cercando di sistemare le cose, cosa che non ci riusciremo mai. Poi ci si aggiunge anche il mondo ecclesiastico, ci si aggiunge, prendiamo ad esempio un paio di giorni fa, il sindaco di Bono aveva proibito e aveva fatto il coprifuoco, dice niente da fare, assembramenti, niente messe, eccetera. Subito il prete ha protestato contro la provincia di Sassari e subito hanno annullato il provvedimento che aveva preso il sindaco di Bono. No, dice, la messa bisogna farla. Ma quando mai? Che fitina? A parte il fatto che secondo me uno che amministra una città o un paese o una regione deve essere autonomo. Se è lui il governatore, per quale motivo poi deve intervenire un ente, un ente o un qualcuno da una posizione più in alto, assolutamente no. Per dirti, no, anche la Chiesa ha le sue colpe, perché gli ebrei hanno protestato ed ecco che hanno annullato quel provvedimento che aveva preso il sindaco di Buono. Questo anche sul giornale di oggi c'è, perché anche poco fa lo stiamo leggendo. Avanti a tu. Capo, hanno fatto il bello e il brutto per tempo come volevano, poi la colpa era la nostra, era. Ti piace giù questa modulazione? È il portatile M. Sì, è buona tu, è buona. Non è molto alta, però è buona, è abbastanza pulita, chiara, bella, insomma, bella. È pulitissima, non c'è problema. Ti ascolto molto bene. Avanti Claudio. Claudio è ritornato in cucina per controllare. Capito Antu? Sì, la tua modulazione è buona Antu, non c'è problema, va benissimo così, va benissimo così. Per dirti non come stanno le cose, sì che da dove si deve vedere la luce si vede il buio completo Antu, per cui non c'è da meravigliarsi che andiamo con questa soglia, andiamo per le lunghe, ma molto per le lunghe, molto molto molto. Perché non credo che duri ancora solamente qualche giorno, qualche settimana, qualche mese. Questa è cosa che ci porteremo sicuramente per tutto l'anno ancora. E speriamo di riuscire a uscirne anche, perché è impossibile continuare così. Un po' per l'economia, un po' per la salute della gente, eccetera, eccetera. Vediamo se rientra Claudio. Sì, ci vedete a voi, siamo andati a controllare, è stato spento il forno. Lo riaccendo dopo per riscaldare. Sì, ma è così, credetemi che è così. Non c'è un bel dubbio, non c'è un bel dubbio. Sono veramente, io cerco di non farlo vedere, però sono veramente preoccupato, perché chi ha un'attività, ma non perché mia figlia lavora nel settore della ristorazione, ma perché tutti sono veramente incasinati. Io stamattina ho telefono con una persona che conosco, che ha un'attività, e mi ha detto: Claudio, credi che sono disperati, devo fare i stipendi e non c'ho manco una lira, cioè non ho incassato niente, sono 15 giorni chiuso e devo fare gli stipendi perché devo dare a mangiare 3 famiglie, come faccio? Non lo so. Infatti dice: volevo andare in banca per vedere se le davano un po' di spazio, poi a rientrare piano piano, cioè tappa e tappa. Ma come si fa a vivere in queste condizioni, cazzo? Cioè è una cosa veramente vergognosa. Sì, qua, perché hanno fatto un errore madornale in estate, hanno fatto un errore madornale, ma in tutto il mondo, però non solamente noi qua, perché adesso saremmo stati praticamente a zero. Io sono più che convinto, perlomeno saremmo stati quasi a zero, dunque in una situazione molto ma molto migliore di come siamo adesso. Certo, oggi purtroppo è così. Tu pensa che anche le multinazionali si stanno lamentando perché non stanno incassando quello che dovrebbero incassare o che avrebbero incassato in condizioni normalissime. È ovvio. Tu, tanto per fare un esempio, anche oggi stavo leggendo, addirittura l'Inter vuole che i giocatori di calcio si abbassino lo stipendio, addirittura il cinese si vuole vendere l'Inter proprio a causa dei mancati incassi, perché giustamente se non entrano soldi e incominci tu a dare, per quanto uno ne possa avere, i soldi alla fin fine diciamo che si consumano, per cui sta pensando Zhang di vendersi l'Inter, ma questo è un altro discorso, non ce ne frega niente. Ma per dire, no, perché tutta questa situazione economica si ripercuote su qualsiasi persona, dal più povero al più miliardario che esiste. Per dirti, no, come stanno le cose. Ecco perché ti dico che hanno fatto un errore madornale, perché se avessimo continuato a starcene tranquilli per almeno massimo, ma proprio massimo, esagerando, un altro mese, quando eravamo in estate, a quest'ora non avremmo avuto niente, non avremmo avuto più niente, ed l'economia sarebbe andata avanti in maniera normale come prima. Siamo stati tutti meglio. Va bene, dai, avanti Antu. Sono entrato io. Cappa, se ognuno invece se n'è andato a casa sua, invece di andare a rompere le scatole a casa degli altri, le cose sarebbero andate prima. O vuoi entrare qua? Beh, fai la quarantena, fai tanto di quarantena, devi essere tutto a posto, se no ti ne andi a casa a doia. Guarda, è una cosa micidiale, veramente, guarda, è veramente impossibile poter continuare con questa situazione qua. Ma speriamo che mettano rimedio, però un po' per l'incapacità, perché l'incapacità c'è, perché c'è, anche ascoltando le persone più responsabili, più competenti, per così dire. Tu li ascolti, un professore ti dice una cosa, un altro te ne dice un'altra, già risentiamo i dibattiti in televisione, magari dai, non si capisce più un accidente. Intanto c'è troppa gente che parla in televisione, confonde sicuramente la mente delle persone, per cui non è possibile, guarda, non è possibile. Siamo in mano degli incompetenti da entrambe le parti, sia dall'alto che dalle istituzioni più alte a quelle più basse e a quelle meno importanti, compresi anche quelli della medicina, perché c'è quello che ti dice una cosa e quello che te ne dice un'altra. Quelli non si va avanti così. Avanti, Roberto. Vabbè. C'è un sacco di disinformazione, un sacco di panico creato, diciamo un po' di tutto. Tanto non cambia niente, anche se ti fai il vaccino, voi siete convinti che cambi qualcosa, non cambia assolutamente niente di niente. Questa roba è roba che andrà per un po' di tempo, per tanto tempo, e poi ne uscirà qualcosa di nuovo. Stanno cercando di rendere pecore la popolazione. Se no sarebbero argomenti troppo lunghi. E non ne voglio parlare perché a me mi buriano. Quando sento argomenti di Covid dico basta, perché cacchio, ne sono stanco di cose. Io vivo la giornata, cacchio, se devo muri muoio, e se vado avanti vado, non me ne metto problemi. E poi basta. Ok, chi era rimasto qua? C'è Claudio, Antonio, tu, Giulio, c'è qualche un altro? No, assolutamente, avanti qua. Sì, Roberto, ma cosa devi fare? Ma è normale che ci viva la giornata. No, ci viva la giornata pensando a che cosa? Pensando che siamo in perdita, perché cioè tu c'hai un'attività, Roberto, e non penso che in questo periodo siano tutte cose e fiori. Si tira la matracca, come si dice in sassarese, e si cerca di andare avanti, giustamente, perché anche tu c'hai delle famiglie da dare da mangiare, ok? Ma il problema è voi, come tanti altri, come i trasporti, come tante altre attività, praticamente sono sempre aperte, ok? Con delle restrizioni, ma sono sempre aperte. Ma la ristorazione, ragazzi, la ristorazione, guardate che c'è già il 20-30% di perdita sulla ristorazione, anche quando già lavori, perché la realtà è quella, tutto ciò che avanzano lo puoi ridare il giorno dopo. Chi al bar ci avanzano le tasse, le deve buttare o le deve regalare, ci avanzano i tramezzini, sì, li mette per fare gli aperitivi, ma tante cose si buttano, credetemi, perché io ci sono in mezzo, capito? Si buttano, così i ristoranti, così tante attività della ristorazione. Capito? Quindi già c'è una perdita minima, che chiamiamola minima, quando uno è aperto e sta lavorando. Pensate questa chiusura totale, queste chiusure totali che hanno dato al ristoro, è una cosa esagerata, una cosa vergognosa, perché nei giorni di Natale tu lasciavi aperti i bar, con le restrizioni che c'erano, si andava avanti e si cercava di fare un incasso piccolino giusto per andare avanti. Vabbè, ma i miei figli hanno perso 13.000 euro in 15 giorni, ma tu ti rendi conto cosa vuol dire? Senza neanche prendersi una lira loro, e sono quattro soci, fortunatamente non hanno dipendenti, ma come si fa? Cioè, è una cosa allucinante, vabbè, è assolutamente proprio pazzesca. Da, lo so, tu lo sai meglio di tu perché sei parte coinvolta, lo so, per quello che a me mi dà fastidio tutta questa merda di gente che ha il governo. Siamo il paese che ha per abitanti più contagiati di tutti nel mondo, in percentuale, nel mondo non esiste una nazione che ha più contagiati di tanti, e siamo la nazione che ha fatto le restrizioni più gravi in assoluto, eppure cacchio non ha negato a dubbi nel manco questi incompetenti che ti fanno spendere soldi all'attività, devi mettere questo, gli schermi, devi fare questo. quello, quell'altro, e alla fine che hanno speso soldi per investire, per fare questi miglioramenti, che si fa per dire miglioramenti, e poi li fai chiudere nel periodo principale, cacca. Ma che discorsi di merda stiamo facendo? È gente ignorante che non capisce niente, perché se tu vai in altre nazioni, mi hai fatto chiudere, dammi i soldi e dammi la possibilità di recuperare quei soldi, blocca le tasse, non mi fai pagare le tasse, lo sai quanto stiamo pagando di tasse qua, tu non ti manco te ne immagineggi, e ce le stiamo facendo rateizzare con i ravvedimenti, nel senso se no non ce la fai, non esci più, e noi siamo la parte meno toccata, figurati quelli che hanno un ristorante, un bar, quelli che lavorano a Capodanno, che facevano i cenoni, che erano tutto l'incasso dell'anno, lo facevano in due giorni, a Capodanno o a Natale nei cenoni, cosa devono dire quelli? Io grazie a Dio non mi lamento, perché un pochettino noi riusciamo a sopravvivere, ma tua figlia, quelli che hanno investito soldi, giovani, che hanno volontà di fare qualcosa di nuovo, li hai fulminati per questi animali che abbiamo al governo. Fulminati? Sottoterra gli amici, vabbè, sottoterra, la figlia aperta a maggio, ma prendi conto, a maggio, cioè dopo che febbraio, marzo, aprile sono rimasti chiusi, a maggio, e siamo nel periodo dove si incassa, dove perché grazie a Dio lavora parecchio, perché è un'attività che è in via Roma, non è in via Fermi, per dire una via, ma è in via Roma, quindi lavora tantissimo. Li hai ammazzati, gli hai tolto il pane quotidiano, gli hai tolto tutto, cioè la più grande è mia figlia, gli altri sono poco più di 20 anni, cioè, ma come si fa? Hanno investito quattrini, hanno investito tanto, capito? E tu mi l'hai girato anche, ma io parlo di me, per parlare di mia figlia, dell'attività che ha mia figlia, ma parlo di tanti altri colleghi di mia figlia, che sono veramente disperati, perché se tu fai una cosa del genere, devi fare con criterio, perfetto, c'è questo problema, si chiude, a me mi paghi, in un mese quanto guadagni al tuo bar, fammi vedere le carte, tu commercialista, che mi faccia vedere le carte contabili, in base a quello che tu hai guadagnato, io ti do l'80%, va bene lo stesso, ma li metti in condizioni di poter pagare l'affitto, la luce ai fornitori. A gennaio mia figlia e tutto il suo gruppo hanno una spesa che non ti dico, capito? E non hanno incassato nulla, niente di niente. Avanti Giulio. Sì, beh certo, del resto come tutte le attività, ma senza andare molto lontano, guarda. Io un piccolo pallino qualsiasi, avevo già quasi un bagaglio di denuncia di eventi quest'anno, dico quest'anno nel 2020, no? 6.000 euro, basta, hai diritto tutto, eppure sono un pensionato, ho pagato 6.000 euro, dice ma tu hai un certo reddito, non hai compreso che io me l'ho guadagnato, me l'ho travagliato, e quando stavo lavorando ti ho versato tutte le tasse, tutto quello che mi hai chiesto, te le date tutte senza farti mancare niente, 6.000 euro, hai pagato, dice Lucia del reddito, boh basta, abbiamo detto tutto. Certe cose ti fanno nervosire, per carità, mamma mia, la vede bigliate e ammazzarle. Tu mi dirai, ma se dai bagagli vuol dire che ce li hai e vabbè, ce li ho, d'accordo, e io non dico di no, è chiaro che se me li chiedi vuol perché sai che ce li ho, questo è vero, però ma per quale motivo io ti devo dare una cifra così alta, non lo so io, dimmi tu per quale motivo, spiegamelo, eh? Non ho più un'attività. Dice, ma tu hai un reddito, e beh, e con questo, non è che l'hai giubulato, me lo sono guadagnato, non ti devo niente, per cui non capisco come mai tu mi chiedi tutto, ma giubuli là, 6.000 euro, non so due franche, non so, 6.000 euro, tutto detto, vabbè dai, avanti vabbè. Già lo so, guarda, non entriamo in argomenti di tasse, Giulio, quello che a me mi dia. Quelli che poi si lamentano, che danno ragione a questi merdosi che abbiamo al governo, sono quelli che hanno lo stipendio fisso, gli impiegati di banca, gli impiegati statali, gli insegnanti, io ho solo gli insegnanti, i nomi parenti che sono impiegati, quelli non si lamentano, dice dovete stare a casa a voi, che cattivo di stare a casa, tanto a te ridinati di dati, invece lo Stato sta andando male, la nazione sta andando male, togli nel 10% di stipendio a quelli che hanno lo stipendio fisso. detto, a vedere se si rivolta alla popolazione. Io ho detto, diamo un sacrificio a tutti, perché noi, i ristoratori, tutti quelli che stanno veramente male, togliamoci un tanto a testa per darlo come cosa, visto che questi cacchi di soldi dell'Europa è una biliata a balumonte e non tirarsene nulla, proprio è una presa per i fondelli, che non si sa cosa ne faranno di questi soldi, se arriveranno. Vedi che la gente la si ribella, perché tutti quelli che senti i commenti, voi dovete stare con la... Sì, cara, ci vai tu a guadagnare, io se non vado a lavorare, io non mangio, forse l'hai compreso. Tu magari che c'hai lo stipendio fisso, già te li arrivano i soldi fissi e non ti tolgono una lira. Chi ci rimettono sono sempre gli artigiani e i commercianti, che sono quelli che mantengono l'Italia, le piccole imprese, e non ha ancora compreso la niente. Ma che andiamo in Gragicina, andiamo. È come che se io domani cazzo non vado a lavorare, cosa vedi? Cioè cosa fanno? Cioè, il gas non viene in casa, non viene arrivi gas. E se non hai compreso ancora nulla, no, ma chi non viene andete? Tutta gente sfaticata che non ha fatto mai niente in vita loro. Io lo so, dillo a Giulio che una vita che lavora, un artigiano gli date una pensione da fame, o a mio padre che ha lavorato tutta una vita, e stai continuando a pagare, noi paghiamo una barca di soldi, di IMU, di tasse, cacchio, di proprietà nostra, d'officina, che mio padre ha costruito per non pagare l'affitto, e ci deve pagare l'affitto al comune di roba suia. Ma dove cacchio sei mai visto? Solo in Italia devi pagarti l'IMU sulla roba suia, ma dove cacchio sei mai visto? Bacari dai, bacari dai. Avanti, cla. Vabbè, lascia perdere. Lascia perdere, quello che hanno lasciato i suoi c'è una cosa indescrivibile tra ittiri e sassari. Fortunatamente stiamo cercando di far fuori tutto, perché, come ha detto Giulio, l'anno scorso mi è sceso un raio, capito? Perché se ne occupa mio cognato, poi sono due figli praticamente, un maschio e una femmina, però mio cognato commercialista, e quindi si occupa lui di queste cose, e quando ci ha fatto vedere cosa ha cacciato fuori, siamo spaventati. 12.000 euro, non seno, il doppio Giulio, 12.000 euro di denuncia dei redditi, tra i terreni ci sono a Itiri, la casa che c'è a Itiri, la casa di Viale San Francesco, quello il magazzino di Via Sfroni, lascia perdere, capito? Come dice Roberto, cioè quelli hanno fatto un sacrificio per farsi il suo potere, per non pagare affitto, che poi te le devo restituire, infatti già stiamo venendo tutto, la gran parte già venduta la grande, quindi proprio perché così si impiccano, di l'IMU e la Inginarabi, avanti Giulio. Purtroppo così, io se ho voluto una pensione discreta a livelli accettabili, me ne sono dovute rinforzare, e dunque non è bastato pagare solamente quella quota che avrei dovuto pagare, come la maggior parte degli artigiani hanno fatto, ma ho dovuto pagare molto di più, proprio per avere una, perché sapevo benissimo che quando sarei andato in pensione la mia pensione sarebbe stata proprio da morti di fame, a livello come tutti gli artigiani intorno agli 800 euro, 840 euro mi sembra che danno, una cosa del genere. Io prendo molto di più, però me li sono pagati a parte, me li sono pagati. Ecco qual è il problema, che se quei soldi me li avessi conservati dal primissimo momento, sarei stato ultramilionario, sarei stato adesso qua. Tu pensa, 50 anni di attività e hai detto tutto, oltre anche ai versamenti di quando ero dipendente, eccetera. Per dirti, no? E purtroppo la situazione è questa, siamo in Italia e basta, non c'è niente da fare. Allora, se tu guadagni qualche lira, te ne abbigliano subito in tasse e in maledizioni varie. Purtroppo è così. Boh, vabbè, comunque. Tu mi dirai, mia figlia così e così, non sta lavorando lì nel campo, nel settore della ristorazione. E perché pensi che mia figlia, ragazzi, come professionista, stia lavorando normalmente come lavorava prima? No, nella maniera più assoluta. Anche lì sì, sta lavorando, è vero, però no, non c'è quella attività di lavoro come era prima. Perché non c'è? Perché tutti gli enti, tutte le regioni, i comuni, tutte queste cose qua, e anche i privati, eccetera, si trattengono di fare certe cose. È ovvio. E lei, giustamente, nonostante che stia lavorando, che non è che si può lamentare questo, no, però non è certo ai livelli magari dell'anno scorso quando non c'era la pandemia, è ovvio. Speriamo appunto che passi tutto in fretta e furia, in modo che tutti quanti si possano riprendere, tutte le persone che lavorano in proprio soprattutto, per dirti, no, nonostante che è una professionista. Vabbè, comunque, andavano a mattersi, cosa ci vuoi fare? E meno male, capita, e meno male che ho avuto la fortuna di mettere da parte qualcosa, se no gli hai mandati meglio con queste tasse che ti fanno pagare. E come avrei risolto la situazione? Non avrei potuto risolvere, ma avrei dovuto prendere tutto. Ma comunque, avanti Robè. Ma tu adesso, noi stiamo facendo delle cose, tu grazie a Dio, c'è una certa età, te l'hai fatta, la vita te l'hai goduta, tua figlia si sposerà, ci avrà dei figli, i figli di tua figlia come vanno a finire? Tu pensa a loro, chi dovrà mantenere? Tu adesso per dire, gli dà una mano tua, a tua figlia, a me me la dà mio padre, a miei figli la do io una mano, i figli di mia figlia, chi gli darà una mano? Che futuro hanno questi ragazzi di oggi? Perché già siamo in difficoltà noi, la prima generazione, ci sono i miei figli che saranno chissà come, e poi i figli della figlia di Claudio, i nipoti di Claudio, che cacchio li mantiene? Cioè questo non ci abbiamo pensato, cioè non ci hanno pensato. Io adesso sto mettendomi nei panni della figlia di Claudio, dovrà pagarsi l'affitto del locale, o sbaglio Claudio? Forse è andata a girare le cose in cui ha già un grido, cioè io sono pazzato, mi ho preso il coso, cioè ragazzini, ma dai, ma come si fa a togliere il futuro a queste persone qua? Che ci vogliono, cioè ci vogliono realizzare un qualcosa. Cioè, qua no, lasciamo per, cioè, proprio ti piange il cuore, cioè, ma anche vedere questi ragazzi senza lavoro, ma come ti si fa? Sì, vabbè, Antonio già ci va spesso al bar da mia figlia, e già lo sa quanto lavora. Mi sto dicendo che è veramente preoccupante, perché c'era per cacciare fuori i soldi raffitto, di dicembre non si hanno preso una lira, ok? Hanno pensato solo a sistemare le cose e basta, capito? Però ti ripeto, mia figlia ha 34 anni, e ha fatto un investimento. Gli altri, vabbè, è più grande di mia figlia, ma gli altri hanno uno a 22 anni e l'altro a 24 anni. Cioè, ma come si fa? Cioè, non si può andare avanti così, capito? Se il governo avesse dato subito gli incentivi che ha promesso, allora forse si sarebbe salvata un po' la situazione del ristoro. Ma siccome non è arrivato una lira a nessuno, perché sono solo farfalle, capito? Parlano, non fanno niente, non voglio dire parolacce, capito? Quindi è veramente una vergogna. Io Giulio, guarda, sinceramente parlando non mi posso lamentare, perché ho lavorato, tu chiaramente sei più grande, è un'altra cosa. Ok, però io non mi posso lamentare, perché ho iniziato a lavorare a 16 anni. Ne ho 61 e sono già 3 anni in pensione, con 41 anni di contributi. Ho una buona pensione, non mi posso lamentare, una buona pensione, buonissima. Ok, poi c'era anche mia moglie, quindi non ci possiamo lamentare. Ma il futuro dei nostri figli, come dice Roberto, che siano grandi o che siano piccoli, dove va a finire? Noi abbiamo gelato, va bene, ok, ma il futuro dei nostri figli dove va a finire? Tu sei convinto che loro fanno la vita che abbiamo fatto noi, o possono avere un futuro di quello che abbiamo noi oggi, che siamo arrivati, siamo pensionati e abbiamo dato tutto quello che dovevamo dare? Ma io non ci credo. Sicuramente non avranno un futuro roseo nella maniera più assoluta, continuando così, con questo sistema sicuramente non c'è da stare molto allegri, anzi c'è da preoccuparsi veramente, perché sappiamo benissimo, non solamente i nostri figli ma anche i nostri nipoti eccetera, che è così, te lo sto dicendo, ma sarebbe stata la stessa situazione la mia se io non avessi provveduto in tempo a rinforzarmi i miei contributi per poter appunto avere una pensione decente. Tu immaginati, abituato alla bella vita che ho fatto da autonomo, se io avrei potuto vivere poi con la misera pensione che danno l'artigiano, no, nella maniera più assoluta. assume là, ma cioè, hai fatto bene a pensarci, certo, ma gli ho pagato burumi, ho anche pagato per avere, ho pagato più di quanto avrei dovuto pagare per avere una pensione abbastanza normale a livello di potermi mantenere tranquillamente. Ecco, e non solo quello, per fortuna poi ho avuto una certa fortuna che sono riuscito a realizzare qualche altra cosa che mi entra. Per cui anche quello è importante. Affitti non ne ho da niente, da nessuna parte, anzi qualcosa del tiro, perciò vedi bene che a questo punto, ma io il sacrificio l'ho fatto, ho trabagliato tutta la vita quasi sempre da solo, per cui penso di avermi sacrificato molto la mia persona e ai giovatori a non finire, perché se dovessi mettere insieme tutte le ore che ho fatto in più di quelli normali che si deve fare un lavoratore, ti posso garantire che avrei da poter aggiungere minimo altri 10 anni di lavoro a tutti quelli che ho già fatto, sommando le ore in più che ho fatto la sera, repita, entravo al buio e uscivo e tornavo a casa al buio, tante volte anche alle 10 di notte, perché magari avevo l'appuntamento con qualcuno per andare a discutere di un lavoro, per non perdere magari il tempo, o perché il cliente a casa quell'ora non c'era perché anche lui lavorava. Io ho dovuto fare anche le ore straordinarie, oltre alla falegnameria, dovevo fare anche poi una specie di parlamentare per convincere le persone più ostinate che non è che ti davano il lavoro così, se tu non parlavi, non gli dimostravi quello che volevi fare, fagli, il lavoro non te l'avrebbero mai dato, per dire, no, era una guerra continua dalla mattina alla notte, non alla sera, dalla mattina alla notte. Avanti Roberto. Io lo so, purtroppo, cazzo, tu grazie a Dio la vita già ne hai fatto, cioè, io sto pensando alla figlia di Claudio, quando ci avrai i figli lì, cosa cacchio vivono, perché Claudio qualche colpo già riesce a darglielo, nel senso qualche aiuto, ma lei se sta iniziando, quei pochi spiccioli che c'ha, li sta investendo in un'attività e poi magari va a finire come sta finendo, cosa gli darà, che futuro può avere il nipotino eventuale o la nipotina di Claudio, è quello che mi preoccupa a me, questa è la cosa più brutta, perché noi questa generazione, diciamo, come te Giulio, tua figlia riesce un po' a mantenerla, il problema saranno i figli dei nipoti, quello è il brutto, perché i nostri genitori ci hanno aiutato, almeno a me non mi hanno aiutato, a Claudio non hanno aiutato, però è quelli che verranno dopo, quanti bene. Vabbè, io direi cambiare argomento, se no mi nervosisco e basta, vai tu. Capo bianco per me che mi sono arrivate le fitte, ci sentiamo dopo. Ehi Antonio, va bene Antonio, a me Giulio c'è solo la differenza di età, guarda, perché i sacrifici che ho fatto io è una cosa indescrivibile. Io ho fatto il trasfertista, ragazzi, avevo 19 anni, dormivo in una baracca di legno, capito? Una baracca di legno, alle intemperie, perché non avevo la possibilità di potermi prendere una casa in affitto, o andare dove andavano i miei colleghi, e non mi sono mai vergognato di niente, mai, assolutamente, nel modo più assoluto, posso essere fiero di quello che ho fatto, di avermi fatto una casa, anzi due, di aver fatto grande mia figlia, di averla fatta studiare, sono contento di tutto quello che ho fatto, non ho nessun problema, di essere ancora in età giovane, perché sono giovane, ok, e di essere già a casa, perché ho già l'atto, quindi tra me e Giulio c'è solo la differenza di età, però quando uno fa i sacrifici da ragazzo, e li fa perché non ho conosciuto fette, non ho conosciuto niente, Giulio lo sa, che proprio lui dice, ma è mai possibile che tutti i domenichi li travaglia tu, sempre, io lavoravo sempre, non mi sono mai tirato indietro, mai, e c'è un riscontro aziendale, oggi come oggi, che te l'ho anche detto, vabbè, che se voglio rientrare a lavorare, posso rientrare domani mattina, in questo momento, proprio perché me l'hanno già chiesto, ma io lascio spazio agli altri, ho lavorato tanto, ho guadagnato tantissimi soldi, perché quando ero trasferita guadagnavo le taranche, come dicono a Genova, ma tante, che in un anno mi sono costruito la casa e pagata subito immediatamente quando ero nella trasferita. mattino, gli altri alle 4:30, i residenti a Cagliari, alla Sara, se ce ne andavano alle 4. Ok, io rimanevo sino alle 7, anche alle 8 di sera, sino alle 7 e 8 di sera, per guadagnare più soldi possibile per poter avere qualcosa in più. Quindi sono sacrifici. Ma torniamo al discorso dei giovani, capito? Le coperture ci sono dei genitori, perché io, quando mia figlia schiocca le dita, io sono pronto immediatamente, perché ne ho una, e giustamente quando c'è un problema bisogna risolverlo subito. Però pensiamo ai nipoti e ai pronipoti, quello è il problema. Che cosa sarà il futuro di questi bambini che devono nascere? Quello è il problema, Giulio. Sì, loro futuro non ne hanno, non ne possono avere. Continuando così di questo passo non possono avere futuro, assolutamente. Purtroppo è così. Io tante volte ho pensato, ma io qui in questa zona abito già dal 1971, praticamente ho fatto il conto 50 anni. Però ho fatto 50 anni di attività lavorativa. E tu mi dai